Blu Radio Veneto. I giorni della Chiesa. Eventi e incontri della Diocesi di Padova. In collegamento con la Chiesa Cattedrale di Padova trasmettiamo la Lectio Divina Quaresimale proposta per le parrocchie della città di Padova dalla Pastorale Cittadina. La meditazione curata da fratello Enzo Bianchi, fondatore della comunità monastica di Bose, sul tema "Tra voi però non sia così", a partire dal Vangelo di Marco, capitolo 10, versetti 35 e 45. Buon ascolto. I giorni della Chiesa. Eventi e incontri della Diocesi di Padova. Buonasera, bentrovati. Ci alziamo in piedi e iniziamo questo nostro momento di preghiera e di riflessione. Alla presenza del Signore ci disponiamo all'ascolto della Sua parola, invocando lo Spirito Santo perché illumini le nostre menti e i nostri cuori. Veni Creatore Spiritus, mentes tuorum visita, in plena superna gratia, quae tu creasti pectora. Qui diceris Paraclitus, donum Dei Altissimi, fons vivus ignis caritas et spiritualis unctio. Tu septi formis munere, dextre Dei tu digitus, turite promissum patris, sermone editas guttura. Accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus, infirma nostri corporis, virtute firmans perpeti. Ostem repellas longius, pacemque dones protinus, ductore sic te previo, vitemus omne noxibu. Per te sciamus da patrem, noscamus atque filium, te triusque spiritu, credamus omni tempore. Amen. Preghiamo. Lo Spirito Consolatore che viene da Te, illumini, o Padre, la nostra mente e, secondo la promessa del Tuo Figlio, ci guidi alla conoscenza piena della verità. per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Egli disse loro: Che cosa volete che io faccia per voi? Gli risposero: Concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Gesù disse loro: Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato? Gli risposero: Lo possiamo. E Gesù disse loro: Il calice che io bevo, anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato, anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali è stato preparato. Gli altri 10, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Carissimo Padre Vescovo Claudio, carissimi fratelli e sorelle, ancora una volta il Signore ci ha chiamati in assemblea davanti a Lui per donarci la Sua parola. E io vorrei solo farmi eco, nella consapevolezza di essere una povera eco del messaggio contenuto in questa pagina del Vangelo di Marco che abbiamo ascoltato. Questo avviene perché nella vita della Chiesa il primato, la centralità, l'egemonia spetta alla parola di Dio contenuta nelle sante scritture, parola che nella potenza dello Spirito Santo si fa udire oggi ancora come parola stessa del Signore. Di fronte a questa parola, seme di vita eterna e forza di salvezza, noi possiamo soltanto aprire gli orecchi del nostro cuore, o meglio, invocare il Signore, lo Spirito Santo, perché ce li apra, in modo che ci sia dato di accogliere la parola del Vangelo, custodirla, meditarla e quindi realizzarla nella nostra vita. Ecco perché il mio ringraziamento al Signore questa sera è rinnovato con convinzione. Grazie all'amicizia nei miei confronti di chi è vescovo della vostra Chiesa in questo tempo di Quaresima e in questa cattedrale, mi è dato di ascoltare con voi il Vangelo e di farne una lettura orante. Predisponiamo dunque tutta la nostra persona per accogliere e comprendere ciò che abbiamo ascoltato. Siamo nella sezione del Vangelo di Marco che ci racconta la salita di Gesù a Gerusalemme. Gesù ha deciso questo pellegrinaggio nella città santa con i suoi discepoli, nella consapevolezza di compiere il viaggio che lo portava all'esodo da questo mondo al Padre. E durante questo viaggio, per tre volte, ci dicono i Vangeli sinottici, cioè con un insegnamento continuo, ha annunciato ciò che stava per accadere, secondo una necessità umana, ben espressa all'inizio del Libro della Sapienza. In un mondo ingiusto, il giusto può essere soltanto rigettato, rifiutato fino alla morte. E Gesù lo dice chiaramente: ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti, agli scribi, e questi lo condanneranno a morte, lo consegneranno ai pagani, lo derideranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno, e dopo tre giorni risorgerà. Il cammino che Gesù compie con i dodici e le donne discepole che lo seguono è il cammino di sequela di ogni discepolo. Ogni discepolo deve stare col Signore Gesù, deve seguirlo fino ad essere pienamente coinvolto nella sua vita, condividendo il quotidiano, ma condividendo anche la fine, la morte. Quella comunità di Gesù è immagine delle nostre comunità. Uomini e donne chiamati da Gesù, scelti da Lui. Uomini e donne che sovente mostrano in questo cammino dietro al Signore di avere poca fede o addirittura mancanza di fede, apistia, incredulità. Uomini e donne fragili e deboli che a volte non riescono a comprendere le parole di Gesù, non riescono a essere fedeli alle esigenze della sequela e contraddicono la loro vocazione e la loro identità, cadendo in quelli che sono davvero dei peccati indegni della chiamata rivolta dal Signore. E Marco, che ci testimonia in questo cammino quante volte Gesù ha dovuto richiamare, rimproverare i discepoli per questa poca fede e per questa poca comprensione di quella buona notizia, il Vangelo, che Gesù aveva annunciato e non solo, aveva confidato a loro. Ma quella comunità, peraltro scelta, istruita, formata dal Signore che era ancora presente e operante in mezzo ad esso, certamente appare una povera comunità. E Marco ha l'audacia di metterci davanti agli occhi la tragica parabola di quelli, Marco aveva scritto, abbandonata la barca, le reti e il padre, avevano seguito Gesù nel primo capitolo del Vangelo. Ma nell'ora della passione Marco deve scrivere e constatare che quelli che erano stati chiamati, che avevano abbandonato tutto, in realtà abbandonano Gesù per fuggire tutti. Marco 14:50. Ecco, Non dimentichiamo la debolezza e la fragilità della comunità del Signore. Non scandalizziamoci di fronte ai peccati che sono presenti nella comunità del Signore. Perché se tale era la comunità, i cui membri erano stati personalmente plasmati come discepoli da Gesù, come potrebbero le nostre comunità essere migliori di quella di cui ci testimonia il Vangelo? Ebbene, mentre questa comunità è in cammino, preceduta da Gesù, due discepoli, quelli chiamati nella prima ora sulle rive del lago di Tiberiade, i figli di Zebedeo, che erano pescatori, ma nutrono dei pensieri nel loro cuore, pensieri che non sono cattivi, sono pensieri comuni in quella cultura e pensieri che gli uomini normalmente hanno. Era infatti normale, allora forse ancora come oggi, che i meriti venissero riconosciuti, che i primi fossero riconosciuti per quella loro storia, per la loro fedeltà e la loro perseveranza fin dagli inizi. E poi, secondo Marco, questi due discepoli, Giacomo e Giovanni, erano anche dei parenti di Gesù, dei cugini, essendo la loro madre Salome sorella di Maria, la madre di Gesù. Secondo Giacomo e Giovanni, se Gesù va a Gerusalemme, va per ricevere il riconoscimento messianico. Sarà proclamato Messia, sarà proclamato Re. E allora dovrà esserci anche un riconoscimento, una ricompensa per loro che sono stati i primi a seguire Gesù e lo hanno seguito fedelmente. E per questo Giacomo e Giovanni si avvicinano a Gesù e gli dicono con uno spirito di pretesa, non certo di umiltà: Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. La domanda è una domanda forte. Noi vogliamo che tu faccia per noi ciò che stiamo per chiederti. Ma Gesù allora risponde: cosa volete che io faccia per voi? Ed ecco emergere la loro domanda, la loro pretesa. Accordaci di sedere nell'ora della tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Così noi siamo posti di fronte a una incomprensione di Gesù proprio da parte di due discepoli. Gesù ha annunciato come eventi ormai prossimi la condanna, l'ignominia, il rigetto, la morte in croce. E questi due discepoli pensano alla loro gloria, ai loro meriti, quei meriti acquisiti alla sequela di Gesù. Non dobbiamo scandalizzarci di fronte a questo, ma piuttosto interrogarci per verificare quante volte anche noi vorremmo godere di vantaggi, vorremmo ci fossero riconosciuti dei meriti e quindi anche dei privilegi nella nostra vita umana quotidiana, ma soprattutto nella nostra vita ecclesiale. Il Vangelo invece ci mostra che il cammino dietro a Gesù non è acquisire dei meriti, ma è un essere spogliati sempre di più. È una diminuzio, un diminuire, per essere sempre più poveri e disarmati, per essere sempre più conformi alla vita umana di Gesù. Ma noi, diciamo la verità, andando avanti nella vita cristiana, sovente accumuliamo riconoscimenti, cerchiamo dei successi e finiamo per contare i meriti acquisiti. Gesù allora dice a Giacomo e a Giovanni, come a noi: voi non sapete quello che domandate. Non sapere ciò che si fa, non sapere ciò che si dice, non sapere ciò che si chiede è spesso la nostra attitudine, sulla quale si stende però la preghiera di Gesù al Padre: Padre, perdona loro, perché non sanno quel che fanno, non sanno quel che dicono e non sanno quel che chiedono. Poi Gesù continua con altre domande per scuotere i discepoli da quell'intontimento spirituale, da quella ignoranza colpevole, e dice a Giacomo e Giovanni: ma potete bere voi il calice che io bevo? Potete voi essere immersi nell'immersione con cui sarò immerso? Decodifichiamo questo linguaggio, queste parole di Gesù che possono anche sembrare oscure. Gesù chiede ai figli di Zebedeo: ma voi siete disposti a bere il calice dell'amarezza, cioè a condividere la passione ignominiosa, la passione in cui conoscerò la sofferenza, il disprezzo, la morte? Siete pronti voi a bere questo calice che io dovrò bere? E poi ancora dice Gesù: ma sarete disposti a essere immersi? Notate il verbo qui, essere battezzati, ma comprendiamolo nella sua verità: essere immersi, sommerse dalle acque della morte. Siete disposti a fare questo con me? Perché questa è la grazia, questo è il dono più grande, questa è l'unica promessa che il Signore fa al discepolo. Questa è la gloria del Messia di Gesù, di conseguenza la gloria del cristiano. Il cristiano non può attendersi riconoscimenti mondani, posizioni, posti di successo, ma la gloria che spetta al cristiano è quella di chi sa fare della sua vita un servizio, di chi sa dare e spendere la sua vita nella libertà e per amore al seguito di Lui, il Signore Gesù. Provocati dalle domande di Gesù, Giacomo e Giovanni rispondono con entusiasmo. Forse non hanno capito bene quello che ha chiesto Gesù. Non hanno capito quel linguaggio e hanno detto: sì, lo possiamo, siamo disponibili. Chissà cosa pensavano che Gesù avesse detto loro. E tuttavia, quelle loro parole, non dimentichiamolo, noi lo possiamo, si avvereranno. Perché Giacomo è l'unico degli apostoli di cui il Nuovo Testamento ci testimonia il martirio e la morte a 14 anni dalla morte di Gesù, lui il primo che sarà ucciso di spada da Erode, proprio perché sarà apostolo di Gesù. E Giovanni, noi non sappiamo dal Nuovo Testamento, ma sappiamo dalla tradizione della Chiesa, che è morto esiliato nell'isola di Patmos, dopo una lunga passione di prigioniero esiliato. Gesù allora svela ai due discepoli il loro futuro. Sì, il calice che io devo bere voi lo berrete, e voi sarete immersi come me nelle acque, nel vortice della morte. Ma il posto, il sedere alla mia destra e alla mia sinistra, lo stare vicino a me quando verrò nel regno, non sta a me assegnarlo, ma è per quelli ai quali è stato assegnato dal Padre mio, da Dio stesso. Gesù chiarisce che non è in suo potere assegnare i posti del regno. Questo spetta soltanto a suo Padre, a Dio. Ma noi non possiamo dimenticare che nell'ora della morte e della passione, alla sinistra e alla destra di Gesù, il posto che avevano chiesto Giacomo e Giovanni, ci saranno due malfattori. E il Vangelo si compiacerà di dire che Gesù è morto in mezzo a due malfattori, due peccatori, due delinquenti. Loro han posto il posto che i discepoli non han preso perché sono fuggiti, sono scappati tutti nell'ora della passione e hanno abbandonato Gesù. Ecco la realtà che il Vangelo ha il coraggio di metterci davanti. Ma dopo le parole di questi due fratelli e la risposta di Gesù, ecco emergere la comunità, con la sua dinamica di gelosie, di concorrenza e di contestazione. C'è gelosia degli altri 10 verso questa pretesa di Giacomo e Giovanni. Chi sono loro per chiedere un tale posto a Gesù? E la gelosia scatena insofferenza, indignazione, collera che si abbatte su Giacomo e Giovanni. Perché questa reazione? Perché gli altri 10 in realtà avevano le stesse ambizioni dei due fratelli. L'emulazione diventa concorrenza, ed ecco apparire la polarizzazione nella comunità di Gesù, alcuni contro altri. È così che i figli di Zebedeo non a caso sono stati chiamati per il loro essere impulsivi Boanerges, figli della tempesta, figli del tuono, impetuosi e capaci di imporsi tra gli altri e qualche volta sugli altri. Dunque nella comunità del Signore si manifestano contrapposizioni e contestazioni reciproche. Allora Gesù, con la sua grande pazienza, la sua grande misericordia, chiama a sé tutta la comunità e innanzitutto dice ai discepoli: voi sapete che coloro i quali sono considerati governanti dei popoli tiranneggiano, spadroneggiano su di loro e come grandi esercitano il potere. E qui Gesù fa una rivelazione estremamente decisiva per i suoi discepoli. Il potere nel mondo è pensato ed attuato come dominio. Il governo significa nel mondo fare da padroni sugli altri, fino a opprimere gli altri. Questo è il mondo, avviene così. E addirittura nella versione di Luca, Gesù con ironia dice: e poi questi governanti si fanno chiamare addirittura benefattori e ricevono titoli gloriosi, in realtà opprimono e soprattutto pensano a se stessi. Noi ne siamo convinti. Lo sappiamo oggi come allora. In questo mondo i poveri non hanno voce. I poveri non sono riconosciuti. Mentre i grandi del mondo dominano e non cercano certo il bene comune. E allora Gesù mette in guardia i discepoli dal copiare e dal lasciarsi influenzare da questi modi mondani. Invita la comunità a stare attenti, a non trasferire alla comunità cristiana il modo con cui si esercita il potere nel mondo. E attenzione, dice quelle poche parole, ma che sono veramente incisive. Tra voi però non è così. Attenzione, Gesù non dice tra voi non sia così, esprimendo un augurio, ma dice tra voi non è così, usando il presente costituzionale. Non sic in vobis, tra voi non può essere così. E queste parole di Gesù diventano lo statuto della comunità cristiana, della Chiesa. Questo è davvero il non conformismo evangelico, è la negazione dell'omologazione dominante nel mondo. Non così tra di voi. Gesù aveva detto poco prima: se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti. Marco 9,35. Capovolgendo ogni logica umana. E anche qui si faccia attenzione: non sta scritto chi è il primo si faccia l'ultimo, di nuovo in una logica di auguri, ma chi è ultimo, servo di tutti, sia fatto il primo. Prima si deve vedere se uno è capace di fare il servo, e allora nella comunità cristiana merita il primo posto, merita il posto di prima. Ma nella comunità cristiana non deve avvenire che uno messo è al primo posto e poi gli si chiede di andare all'ultimo posto. È un capovolgimento della logica umana, della logica mondana, quello che opera Gesù. L'inversione di Gesù, antimondana per eccellenza, consiste nell'affermare che il più grande non si fa servire, ma deve essere scelto tra quelli che servono, come il figlio dell'uomo, il quale non è venuto nel mondo per essere servito, ma per servire e dare la sua vita, spendere la sua vita per gli altri. Gesù stesso ha detto queste parole e le ha dette soprattutto quasi per aiutare i discepoli a leggere la sua vocazione, che era quello del servo delineato dal profeta Isaia, quel servo anonimo, figura profetica che doveva a un certo punto apparire nel popolo di Dio. E quel servo è Gesù, venuto a dare la vita per gli altri, venuto a prendere su di sé le malattie, le infermità e le debolezze di noi uomini, venuto come agnello mansueto, disposto al sacrificio, al dono della vita. E questo allora diventa l'esempio definitivo per chiunque abbia una funzione di guida nella Chiesa. Sia chiaro, nella Chiesa il servizio delle guide, del vescovo, dei presbiteri, di chiunque sia incaricato di un servizio di comunione, ebbene questo servizio non è finalizzato ad assicurare dinamica di gruppo positiva ed efficace secondo schemi psicologici e umani. No, il servizio è una legge per la comunità cristiana, perché realizza concretamente l'amore fraterno, perché questa è la posizione del Signore che sta in mezzo ai fratelli in una posizione di servo per lavare loro i piedi. Gesù dunque si rivela davvero come questo servo del Signore, la cui missione era quella a favore dei fratelli e delle sorelle, fino alla sofferenza, fino alla consegna della sua vita in riscatto per le moltitudini, cioè per tutti. Al cuore della comunità cristiana c'è il Signore, c'è il Kyrios, ma un Kyrios che si fa servo. Ciò emerge ancor più chiaramente nel Vangelo secondo Luca, dove queste parole di Gesù sul servizio sono poste addirittura nell'ultima cena, là dove c'è un discorso testamentario per la Chiesa. E a quelle parole che abbiamo ascoltato sui capi, sul dominio in questo mondo e sul servizio della comunità cristiana, Gesù aggiunge queste parole definitive: perché io sto in mezzo a voi come uno che serve, come uno schiavo. Luca 22, 27. Ma allora, noi comprendiamo che Gesù, con questo non sic in vobis, delinea uno specifico cristiano, ma che è anche una differenza cristiana, e mi piace dire un non conformismo cristiano. Gesù ha fatto questo servizio per tutti, donando la sua vita per tutti, giusti e ingiusti, santi e peccatori, credenti e non credenti, cristiani e non cristiani, proprio per tutti. Ecco di conseguenza il volto della comunità cristiana, della Chiesa. È il luogo del servizio reciproco, il luogo in cui nessuno può vantare privilegi, il luogo in cui proprio chi è primo tiene l'ultimo posto, facendosi, come amava dire Papa Gregorio Magno, il servo dei servi di Dio. Papa Gregorio Magno lo diceva di se stesso come Papa, ma in alcune lettere indirizza questo termine anche ai vescovi, servo dei servi di Dio, ricorda loro, e di conseguenza a chiunque ha un ministero nella Chiesa. Ma in realtà questo "non così tra di voi" non riguarda solo il potere, il dominio. Indica una differenza tra ciò che si deve vivere nella comunità cristiana e ciò che si vive nel mondo, la differenza cristiana appunto. Per questo vorrei, avviandomi alla conclusione di questa lezione, interrogarci sulla vita cristiana, porre la domanda se la nostra vita di comunità di Chiesa è conforme o difforme rispetto a quella traccia che ci ha lasciato Gesù. Il non sic in vobis detto da Gesù è stato reso dall'apostolo Paolo con un'altra espressione: non conformatevi alla mentalità di questo mondo. Qui è Paolo che chiede ai cristiani di Roma, ai quali indirizza la lettera, ma attraverso di loro alle comunità cristiane, di saper rompere con il conformismo dominante, con l'omologazione sempre in atto nelle società umane abitate da idoli, idoli potenti e onnipresenti, quelle che Paolo chiama potenze dell'aria, perché non visibili, eppure ammorbano il clima, agiscono, sono potenti. la preoccupazione di Paolo Apostolo è la stessa di Gesù. Non così, non come nel mondo tra di voi. Ed è la medesima espressione che troviamo nel quarto Vangelo con altre parole nella preghiera di Gesù stesso al Padre. Padre, non prego che tu li tolga dal mondo. Essi sono nel mondo, ma non sono del mondo. Non sono del mondo, pur stando nel mondo. Nei Vangeli e nelle esortazioni apostoliche viene delineato questo non conformismo cristiano che è ispirato dalla vita stessa di Gesù, la sua vita umanissima tra di noi. Come Gesù ha vissuto, così devono vivere i cristiani. Alla sua sequela, cercando di raggiungere quella conformità che è necessaria per essere fratelli di Gesù e di conseguenza figli di Dio, anzi il figlio amato da Dio. Nel mondo ci sono assetti, dominanti culturali, mode e logiche mondane, sovente maggioritarie. Paolo chiama questa situazione assetto di questo mondo. Usa il termine schema, schema tu cosmo tutu, di questo mondo, e noi possiamo parlare in questo senso di mondanità. Non conformarci a questa mentalità del così fan tutti significa avere il coraggio di una vita altra, di una vita che sa discernere gli idoli alienanti, sa combatterli, sa fare resistenza. Una vita che non nasce da una volontà di essere diversi dagli altri, ma da un'adesione al Vangelo di Cristo che la ispira e la plasma, le dà forma. Il non conformismo cristiano non può ridursi a un semplice e acritico no nei confronti del mondo in cui viviamo. Non può significare lontananza dalla fatica degli uomini e delle donne che dobbiamo assolutamente condividere. Non può essere evasione dalla storia e dall'impegno solidale. Non può certamente nutrirsi di condanna e disprezzo, e mai può significare arroccarsi in una chiesa vista come cittadella per guardare dall'alto la città del mondo e giudicarla peccatrice o vederla come Sodoma. Il cristiano non diserta il luogo in cui Dio lo ha posto, come diceva l'autore dell'Adionieto, né sdegnato dal mondo sceglie l'intransigenza, la tolleranza zero, anche quando la mondanità appare nella Chiesa, quando il male si manifesta come comportamento di cristiani o addirittura di pastori che dovrebbero essere riferimenti esemplari al Vangelo. Anzi, in questi casi più che mai i cristiani, riconoscendo il loro peccato e la contraddizione recata al messaggio cristiano, sapranno discernere ciò che è male, ciò che scandalizza i piccoli e quelli di fuori, ma sanno anche non essere preda di una logica che finisce per escludere, la logica del giudizio feroce che non conosce più la misericordia, quale atteggiamento che deve avere il primato su tutto ciò che si dice, su tutto ciò che si vive, su tutto ciò che si opera all'interno della Chiesa. Non sic in vobis, non vogliate conformarvi alla mondanità attuale. Il Vangelo e l'attualizzazione di Paolo vengono verso di noi come un invito forte, risuonano come parola di Dio oggi, soprattutto in questo tempo di Quaresima, che è sempre un tempo di conversione per la comunità cristiana in vista della partecipazione alla vita piena, alla resurrezione del Signore. E allora da questo ascolto della parola di Dio, semplicemente due indicazioni finali. Innanzitutto, questo non sic in vobis chiede alle nostre comunità di essere coscienti della loro situazione pellegrinante verso il regno, in cui si manifesta il peccato, ma in cui continua la fedeltà misericordiosa di Dio ad essere presente, ad estare la santità, ad accompagnare uomini e donne anonimi nel loro quotidiano verso il regno. Deve essere certamente la comunità cristiana una chiesa povera e una chiesa umile. Non siamo forse molto abituati a pensarci come chiesa povera e umile, e forse abbiamo dimenticato quello che il Concilio aveva avuto il coraggio di dirci. Lo ricordo ancora: come Cristo ha compiuto tutta la sua missione nella povertà, nella ostilità, e così anche la Chiesa è chiamata a prendere la stessa via. Gesù, da ricco che era, si è fatto povero. Gesù si è umiliato, così anche la Chiesa, benché per eseguire la sua missione abbia bisogno di risorse umane, non cerchi una gloria terrena, ma piuttosto, con il suo esempio, diffonda umiltà, diffonda abnegazione, spirito di servizio. Lumen Gentium, paragrafo 8. Ecco, una chiesa così, in cui davvero regna il non così tra di voi, una chiesa che ha un volto umile, che non è arrogante, una chiesa che si sa peccatrice ma che invoca la misericordia di Dio, una chiesa che si sente talmente povera da non vantare dei privilegi, da non vantare dei meriti, e sa davvero accompagnare la fatica degli uomini giorno dopo giorno, questa chiesa saprà annunciare veramente il Vangelo. Due parole di Papa Francesco che possono aiutarci. Una detta all'inizio del pontificato, una detta in una delle sue omelie a Santa Marta. Papa Francesco ha detto: io voglio una chiesa povera e fatta di poveri. E quando Francesco ha detto questo, l'ha detto con la passione di chi vuole una chiesa semplicemente conforme al Signore Gesù. Ma poi in un'omelia a Santa Marta, proprio in commento al brano che abbiamo cercato di rileggere insieme, Papa Francesco ha detto: io voglio che ogni comunità cristiana percorra la via dell'umiltà a costo di essere umiliata. E Papa Francesco, dicendo questo, certamente sentiva echeggiare in sé una parola di un padre del deserto. D'altronde, in uno dei suoi libretti d'arcivescovo di Buenos Aires, proprio sull'umiltà la citava. E questa parola è: una chiesa umile impara ad essere umile solo subendo umiliazione. E questo vale per ciascuno di noi. Non dimenticatelo. Alcune volte voler essere umile significa percorrere una via di orgoglio. Io dico sempre che mi bruciano le labbra quando parlo di umiltà, perché l'umiltà non può essere un nostro progetto. L'umiltà si impara soltanto dalle umiliazioni. E per una Chiesa significa anche una Chiesa che riceve umiliazioni. Ma in quel caso, se le riceve nella misericordia di Dio e continua a perseverare nel dare forma a se stesso, secondo l'esempio di Gesù, sarà una Chiesa umile e una Chiesa povera che non confida in se stessa. Ecco che questa pagina del Vangelo ci accompagni durante il tempo quaresimale e chieda personalmente a noi e alla comunità cristiana che voi siete di Padova, a questa Chiesa locale, che il Signore, anche attraverso umiliazioni, ci porti a una Chiesa povera e umile che confida solo in Lui. Sarà una Chiesa evangelizzata e capace di evangelizzare. I giorni della Chiesa. Dalla Chiesa Cattedrale di Padova abbiamo trasmesso la Lectio Divina Quaresimale proposta alle parrocchie della città di Padova dalla Pastorale Cittadina. La meditazione è stata proposta da Fratello Enzo Bianchi, fondatore della comunità monastica di Bose. I giorni della Chiesa. Eventi e incontri della Diocesi di Padova.